Oggi si festeggia San Francesco di Paola, il patrono della Calabria e il protettore dei naviganti e dei pescatori. È il santo più amato dai marinai, che a lui si raccomandano quando il mare è grosso e minaccia di travolgere le loro imbarcazioni. E naturalmente auguri ai nostri amici della Calabria. Si racconta infatti che un giorno un fraticello lacero e smagrito aveva chiesto ad alcuni pescatori di Reggio Calabria, che avevano appena tirato le barche in secco, la carità di essere traghettato attraverso lo stretto di Messina. I pescatori, però, vedendo il cielo coperto da minacciosi nuvoloni, risposero al frate: «No, no, no, non possiamo, il mare tra poco sarà un vero inferno». Allora il fraticello stese il suo mantello sull'acqua, vi salì e con quell'insolita imbarcazione, facendo vela a se stesso, raggiunse le sponde siciliane. Ecco, si trattava di San Francesco di Paola, il santo che più di tutti gli altri ha compiuto centinaia di miracoli mentre era ancora in vita, ragion per cui la sua fama oltrepassò presto i confini dell'Italia. Infatti, quando era re Luigi XI di Francia, colpito da una grave malattia, sentiva che i suoi giorni erano contati e allora chiese a Papa Sisto IV di inviargli un santo capace di guarirlo. Il pontefice, senza esitare, inviò Francesco da Paola, che partì per la Francia. Lungo il cammino, Francesco liberò la città di Bornu e Frejus da una terribile malattia. Giunto poi al capezzale del re, non recò la guarigione del corpo, bensì la guarigione della sua anima, aiutandola ad accettare serenamente e cristianamente il volere di Dio. Ma chi era questo santo? Francesco d'Alessio, conosciuto da tutti come San Francesco da Paola, visse tra l'anno 1436 e il 1507, quasi tutti gli anni della sua vita in Calabria, ma passò gli ultimi 20 anni in Francia. Era nato a Paola, in provincia di Cosenza, e apparteneva ad una modesta famiglia quando nacque. I genitori lo chiamarono Francesco in onore del santo d'Assisi, al quale avevano chiesto di intercedere per il loro figlio, che nonostante 15 anni di matrimonio non era ancora nato. La gioia dei genitori però si era trasformata subito in tristezza, poiché un mese dopo la nascita del figlio, la madre aveva scoperto nel neonato un piccolo ascesso nell'occhio sinistro, che rapidamente si estese fino ad offendere la cornea. Quando i medici disperavano di salvare l'occhio, la madre si recò in chiesa e fece un voto a San Francesco d'Assisi, il voto di tenere il figlio in convento dei frati minori per un anno intero, facendogli vestire l'abito francescano. Tornata a casa, la madre si accorse che l'ascesso era sensibilmente diminuito e dopo qualche giorno l'occhio era perfettamente guarito. A 12 anni i genitori, per sciogliere il voto, lo condussero nel convento dei francescani. È qui che il ragazzo rivelò le sue doti non comuni. Si racconta infatti che stupisse i frati dormendo per terra, digiunando e pregando, e che già iniziavano i suoi primi miracoli. Un giorno il santo di Paola si era dimenticato di accendere il fuoco sotto una pentola di legumi perché si era trattenuto in chiesa a pregare e lo avevano scoperto mentre si alzava in estasi di 3 palmi dal pavimento. Francesco, confuso, si precipitò in cucina dove, tra lo stupore dei frati, accese con un segno di croce il fuoco e l'acqua bollì all'istante, cuocendo i legumi in pochi minuti. Dopo un viaggio ad Assisi e a Roma, lasciò il convento per andarsi a nascondere in un luogo solitario nei dintorni di Paola e di lui, per Per lungo tempo nessuno seppe più nulla. Alcuni anni dopo lo scoprirono casualmente dei cacciatori mentre inseguivano un capriolo. Da allora la gente cominciò a recarsi al suo romitorio, soprattutto i più giovani, desiderosi di seguire una vita dedita a Dio come lui. E così cominciò a formarsi una piccola comunità che poi divenne l'ordine dei minimi, un gradino più in basso dei frati minori fondati da San Francesco d'Assisi. Il santo eremita aveva realizzato tutto questo quando ancora non aveva compiuto, pensate, 20 anni, tanto che è considerato il più giovane fondatore di ordini nella storia della Chiesa. Tutti i suoi miracoli non lo distoglievano affatto dal servizio dei poveri e dall'aiuto dei lavoratori, spesso vittima dei potenti signori dei quali egli denunciava pubblicamente le malefatte, invocando giustizia e minacciando per loro terribili castighi. Le sue pubbliche denunce erano soprattutto rivolte al re di Napoli, Ferrante d'Aragona, il quale tentò in tutti i modi di farlo tacere. Si racconta che un giorno il re inviò i suoi soldati ad assediare il convento con l'ordine di catturare il fraticello, ma Francesco si prese beffe dei soldati, sparendo all'istante dalla loro vista. Il re allora provò a comprare il suo silenzio e invitò Francesco a corte con l'intento di offrirgli un bel gruzzolo di monete d'oro. Il santo ne prese una, la spezzò con le sue mani e dalla moneta spezzata, pensate, sprizzò il sangue. E allora il frate disse al re: «Questo è il sangue dei tuoi sudditi, i sudditi che tu opprimi e che grida vendetta al cospetto di Dio». Uno dei primi miracoli compiuti da San Francesco da Paola lo compì durante il suo soggiorno a San Marco Argentano. Un giorno, mentre serviva la messa, il sacerdote lo incaricò di andare a prendere la brace per il turibolo. Francesco dimenticò di prendere il recipiente e così, per fare prima, portò la brace nelle mani senza scottarsi. Nel giorno del santo eremita di Paola, noi rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco da Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo ai vertici della santità, lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore. Concedi anche a noi di seguire il suo esempio per condividere l'eredità promessa ai miti e umili di cuore e la grazia che ti chiediamo, fiduciosi nella sua intercessione. Amen.